Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Particolare Last Minute che anticipa un appuntamento di domani alle ore 18 al MAST. Intanto di rientro dal GR di Radio Popolare per questo mercoledì 3 aprile, parliamo, in quanto l'ho citato inconsapevolmente, di un matematico, logico, filosofo britannico che risponde al nome di Alan Matheson Turing, considerato uno dei padri dell'informatica. Mai avrei pensato di citare uno dei padri dell'informatica, e ovviamente questo genio, perché di genio si tratta, è uno dei più grandi matematici del XX secolo, un lavoro che ha avuto un'influenza sulla nascita della disciplina informatica grazie alla sua formalizzazione dei concetti di algoritmo e calcolo mediante l'omonima macchina, che a sua volta costituì un significativo passo avanti nell'evoluzione verso l'uso moderno del computer. Un genio assoluto. Che poi sia successo, sta succedendo quel che sta succedendo, giustamente per informarsi e per pensare ognuno con la propria testa e non con la testa del computer, cosa buona e giusta, magari vedere in uno spettro a 360 gradi quello che è anche il contenuto di Machina Sapiens. Nello Cristianini, l'edizione è Il Mulino, sarà come ho detto alle ore 18 al MAST Auditorium per la giornata di domani. Ho iniziato la conversazione con il dottor Cristianini parlando appunto: ma le macchine possono pensare? Ho strutturato l'intervista in questo modo e ho scoperto che uno dei lavori di Turing inizia proprio in questo modo. Beh, intanto per saperne di più ascoltiamo la prima parte di conversazione con Nello Cristianini. Diciamo che questo è un momento unico nella storia del mio campo dell'intelligenza artificiale. Questa domanda che lei ha posto è la domanda che pone Alan Turing. La prima riga del primo articolo mai scritto nel campo dell'intelligenza artificiale era quella che le ha detto: propongo di considerare la domanda se le macchine possono pensare. Dopo, Turing, dopo due righe, aggiunge: propongo anche di considerare, di trattare come pensanti quelle macchine che sono in grado di sostenere una conversazione su qualunque argomento senza essere smascherate. Bene, per 70 anni abbiamo tentato di fare macchine di quel tipo lì. C'era anche una competizione per fare le macchine che conversano in quel modo lì. Nessuno ha mai vinto la competizione. Ma lo scorso anno tutti abbiamo dialogato e conversato con un meccanismo che si chiamava ChatGPT, il quale rispondeva perfettamente, e il 40% di noi, da uno studio, non sono in grado di riconoscere il bot quando lo incontrano. Ma questo percorso avrà la mano di un essere umano pensante dietro? Beh, abbiamo costruito il meccanismo, l'ha costruito una compagnia di esseri umani, e l'algoritmo alla base di tutto è perfettamente compreso, è pubblico, è pubblicato, sono già da 5 anni che esiste. Quello che non comprendiamo è: una volta applicato questo algoritmo che impara, facendolo leggere tutti i contenuti del web e 10.000 libri, qualcosa di nuovo emerge che non comprendiamo a fondo e che ci sorprende. Si chiamano le abilità emergenti, che emergono spontanee. Quindi sì, è una creatura, una creazione dell'intelletto umano, ma prende poi a sua volta la sua vita, tra virgolette, che non comprendiamo a fondo. Tutto questo è molto inquietante. Secondo me è sempre meglio capire le cose a fondo. Questo è un momento in cui la pratica ha accelerato così velocemente, la tecnica, e i modelli matematici, la scienza, la comprensione profonda stanno ancora inseguendo. Quindi capita, nelle grandi rivoluzioni tecniche, che prima c'è un progresso acceleratissimo della tecnica e poi la scienziata deve seguire. Questo è uno di quei momenti unici. Le macchine sono in grado non solo di pensare, vede, mentre noi insegniamo alla macchina a svolgere un compito molto semplice, che è predire le parole mancanti in un testo. È banale, si prende un testo, si cancellano delle parole a caso, si chiede alla macchina di predirle, quando sbaglia la si aggiorna. Ma se lo applichiamo a contenuti come l'intero web, come tutto Wikipedia, la macchina sembra imparare anche delle altre cose. Oh, voluto ammorbare il professor Nello Cristianini con questi interessantissimi contenuti, in quanto, come ben sapete, la mia ignoranza su tale contenuti è talmente sissifea che è più grande della mente del server mastodontico esistito e costruito che sarà nell'immediato portato a termine, perché a quanto pare è tutto in corso d'opera. Beh, la mia ignoranza è molto più grande e in tutto ciò è un vero modem incredibile, se si può usare o se c'entra qualcosa. Ormai le definizioni sono diventate tra le più variegate, tra neologismi e quant'altro, quindi non sono stato ad ammorbare. Ma è più forte una matita o un computer? Per me è una matita. Ma è più forte un libro o un circuito chip? Per me è più forte un libro. Si parlava di filosofia, si parlava in questo caso di un aspetto tecnologico, anzi, mi sono meravigliato di aver citato inconsapevolmente il più grande matematico del XX secolo. E questo matematico con un test è stato per decenni il sacro graal dell'informatica. Nel 2023 lo abbiamo superato e adesso questo libro è la storia di come abbiamo risolto in pochi anni un problema che ci resisteva da decenni e di come questo potrebbe cambiare il mondo in cui vediamo il mondo. Bel quel, aggiungo io. Tornando alla filosofia, è un grosso problema anche per la storia, perché con la scrittura la storia ha avuto un suo percorso. Prima preistoria, poi l'invenzione della scrittura, si passa alla storia. Ora stiamo dimenticando la scrittura, non è che torniamo alla preistoria. Qualche sospetto, e secondo me anche giustificato, ce l'ho. Poi tecnicamente, ciao, se tecnicamente siamo dei fenomeni. Di abilità emergenti, mi sono informato anche su questo contenuto. Le abilità che stanno emergendo nei modelli di linguaggio saranno certamente utili, ma sono anche poco comprese, a quello sicuro. Mentre insegniamo alla macchina a predire le parole mancanti, questa diventa capace di comprendere, tra virgolette, intere frasi, e se spingiamo questo all'estremo vediamo emergere la capacità di programmare e comprendere il contenuto delle immagini tra le altre cose, e di questo abbiamo parlato nella seconda parte di conversazione con Nello Cristianini. Completa i sillogismi, traduce, fa riassunti. Tutto questo non è spiegato dalla teoria attuale del machine learning, ecco perché è affascinante e va compreso. Allora, nel mio piccolo, questo libro è la storia, proprio è scritto in forma di racconto, è la storia di come siamo riusciti nel giro di 5 anni a fare una macchina parlante. E questo ovviamente in proiezione futura. Cosa ci può dire a proposito di percorsi futuri? Anche se stiamo già correndo tantissimo, La famosa cosa sarà? Punto di domanda. Noi nella storia del mondo, nel mio libro si parla molto di questo aspetto qui, Machine Sapiens, ho stimato che abbiamo scritto circa 120 milioni di libri. Cioè nelle biblioteche del mondo ci sono 120 milioni di libri diversi fra di loro. Circa 30 milioni sono stati già scannerizzati da Google per il progetto Google Books. Quindi esistono in forma digitale 30 milioni di libri importanti. Al momento GPT ne ha letti circa 10.000. È una questione di tempo prima che noi inventiamo il prossimo GPT, la prossima versione, e gli facciamo leggere tutto. Sarà degli anni, non è domani, ma sarà dopodomani, capisci cosa intendo? Certo. Nel futuro queste macchine avranno letto tutto lo scibile umano. Cosa emergerà a quel punto? È un grande punto interrogativo, che poi è la domanda fondamentale di questo libro. Machina Sapiens, Nello Cristianini, le edizioni e il Mulino, sarà alle ore 18 giovedì 4 aprile al MAST nella sala auditorium. Quindi la aspettiamo a Bologna, le auguriamo una buona giornata e grazie per questa breve anticipazione. Buona giornata. quindi adesso abbandono i panni del Don Chisciotte, perché veramente è una lotta contro i mulini a vento che mi rende anche oltre il ridicolo, per cui attenzione, questi contenuti è indispensabile conoscerli, o almeno cercare di avvicinare quella che sarà l'immediata tra virgolette narrazione e la modalità anche della storia e della filosofia, oltre che di contenuti matematici. Quindi consigliatissimo al MAST domani, giovedì 4 aprile alle ore 18, precisamente MAST Auditorium, Machina Sapiens, Nello Cristianini, Il Mulino per le edizioni. Mentre con il Voltiamo Pagina, libri rigorosamente in formato cartaceo, a breve avremo, anzi nell'immente, Stefano Calanchi già sta entrando in studio diretta, seguito da Silvia Albertazzi, il Dream Team letterario al completo, un po' di pubblicità e poi si rientra. Anzi, ricordo il 333-180-9494, così arricchite un po' la vostra biblioteca. A tra poco.